vorrei che il Ministro registrasse la profonda irritazione, credo di poter dire delle opposizioni, ma intanto di quella che rappresento io, per il meccanismo di discussione di tutta questa manovra. Prima un decreto, poi il DPF, il decreto monstra, il decreto che è manovra per l'emendabilità, quanto emendabilità e quanto racconto esterno, ma non è manovra quanto a tempi. E questa è una cosa vergognosa. Faccio notare che neanche in Europa, dove c'è un delirio burocratico, che Tremonti ha spesso denunciato, si è costretti a procedure di questo genere, per cui 9 minuti a fare una manovra, 9 giorni a scriverla e non so quante ore per discuterla in Parlamento.